storie italiane. Principessa fata. C'era una volta un re a cui era nata una bellissima figlia. La trovava così bella che la chiamò principessa fata. Tutti a corte e nel regno accettarono questo nome un po' diverso. Ma una fata di nome Largy non piaceva. Come osa chiamare la sua normale bambina umana principessa fata? Non tollererò questo insulto. Insegnerò al re una lezione. Quindi, quando principessa fata aveva appena 8 anni, Largy apparve nella forma di una donna anziana e rapì la bambina mentre stava giocando nei giardini del palazzo. Portò la principessa fata in un bellissimo palazzo e la fece lavorare lì come sua cameriera. Principessa fata, d'ora in poi ti occuperai di questo fuoco e farai sì che non si spenga mai. Se dovesse spengersi, ti manderò dal mostro Larconi a riprenderlo. E Larconi ama trasformare gli umani in pietra. Passarono gli anni. Principessa fata crebbe fino a diventare una bellissima giovane fanciulla. Un giorno passò davanti ad una fontana nel palazzo, quando vide improvvisamente un arcobaleno formarsi nell'acqua che scorreva. Rimase lì a guardarlo e una voce le parlò. Principessa fata, ti guardo in questo palazzo ormai da alcune settimane. Ti dispiacerebbe rimanere un po' a parlare con me? Sei tu questo arcobaleno? Sì, sono io. La fata di questo palazzo voleva vendicarsi di mio padre, un re. Quindi mi ha rapito e mi ha messo in un palazzo lontano da qui per anni. E ora vuole farmi un incantesimo orribile e così mi ha portato qui. Ma senza il mio corpo posso solo parlare attraverso i 7 colori dell'arcobaleno. Oh, anche mio padre è un re e la fata ha rapito anche me. Da quando sono qui non ho incontrato nessun altro. Anche io, da quando mi ha rapito, il mio corpo è in un sonno magico. Posso parlarti solo ora perché il mio corpo non è qui. Anch'io non parlo con nessuno da anni. Possiamo essere amici? Sì, mi piacerebbe molto. È così bello avere qualcuno con cui parlare. Ma cos'è questo orribile incantesimo che ti farà? Non lo so. Tutto quello di cui sono consapevole è che l'incantesimo può essere rotto solo se il mio corpo viene risvegliato. Ma nemmeno io so dov'è il palazzo in cui riposa. Ho solo sentito Largy dire che il palazzo è oltre il castello del mostro Larconi. Allora, quanti anni avevi quando sei stata portata qui? E così il principe arcobaleno e principessa fata si incontrarono ogni giorno, condivisero i loro dolori, si confortarono l'un l'altra, risero e scherzarono. Questo andò avanti per molto tempo e iniziarono ad innamorarsi. Principessa fata era preoccupata per questo orribile incantesimo che Largy avrebbe fatto al principe arcobaleno. Sai quando Largy ti farà l'incantesimo? No. Largy fa sempre i suoi incantesimi importanti durante la 5ª luna piena dell'anno. Mancano solo 3 giorni. Proverò a svegliare il tuo corpo in quel palazzo. Cara, non sappiamo nemmeno dove sia quel palazzo. Sappiamo solo che devi attraversare la tana del mostro Larconi per arrivarci. E questi sono incantesimi magici. Siamo semplici umani. Come lo spezzerai? Non posso lasciarti andare. È troppo pericoloso. Non sto chiedendo il tuo permesso, lo sai? Non posso sopportare il pensiero che tu rischi la vita per me. E io non posso sopportare l'idea che ti stia per accadere qualcosa di orribile. Senti, non so come fare, ma non mi arrenderò prima di aver provato. Sappiamo che il palazzo dove dorme il tuo corpo è oltre la tana del mostro Larconi. Quindi è lì che andrò. No, quel mostro trasforma gli umani in pietra. Per favore, resta qui con me. Come posso chiedere a Largy di mostrarmi la strada per la tana di quel mostro? Ah, so esattamente cosa fare! principessa fata spense il fuoco e, come aveva previsto, l'argi divenne furiosa. Hai lasciato che si spengesse? Non ricordi cosa ti ho detto che avrei fatto se fosse successo? Mi dispiace. No! Ora dovrai andare a prenderlo dalla tana del mostro Larconi nella foresta oscura. Prendi questo. Riporta la fiamma con questo. Cioè, se prima non ti trasforma in pietra. Imperturbabile e determinata, principessa fata si avviò verso la tana del mostro Larconi. Camminò nella foresta oscura e all'improvviso vide un cervo balzare in avanti. Si voltò e le parlò. Perché un essere umano come te si aggira in questa foresta oscura? Devo andare oltre la tana del mostro Larconi. Il mostro trasforma gli umani in pietra. Lui non ti lascerà mai viva. Ci deve essere un momento durante il giorno in cui è fuori dalla sua tana. Entrerò nella sua tana solo allora. È un buon piano, ma è troppo rischioso. Perché stai rischiando la vita per qualcun altro? Non hai paura? Ho paura per me stessa e per il principe. Ed è per questo che non mi arrenderò prima di aver provato. Devo andare ora. Proprio mentre principessa fata stava per andarsene, il cervo si trasformò improvvisamente in una bellissima fata. Ammiro il tuo coraggio, principessa fata, e ti aiuterò. Prendi questa. Usa il suo contenuto solo quando non c'è altra soluzione. E ricorda, non puoi dormire e non puoi mangiare finché non arriverai al palazzo dove si trova il principe arcobaleno. Qualsiasi cosa accada, non aver paura e non mollare. Grazie mille. Farò come dici tu. Principessa fata andò per la sua strada. Trovò la tana del mostro Larconi e attese dietro degli alberi che uscisse. Poco dopo, lo vide entrare nella foresta. Quindi si precipitò dentro la tana per attraversarla quando all'improvviso sentì un forte e malvagio grugnito alle sue spalle. Pensavi poter entrare nella mia tana senza che io me ne accorgessi? Per favore, lasciami andare! Lasciare andare un pezzo di pietra così bello? Non avvicinarti di più! Non c'era altra soluzione. Mise la mano nella borsa e tolse quello che c'era dentro. Immediatamente ci fu un lampo di luce così intensa che il mostro fu accecato e principessa fata si precipitò dentro la tana. Principessa fata raggiunse un altro bosco. In lontananza c'era un castello. Nel momento in cui lo vide, improvvisamente si sentì fredda, affamata e stanca come non aveva mai fatto prima. No! Non posso dormire! Devo andare avanti. Se non mangio e non riposo, morirò. Ma non posso fermarmi proprio ora. All'improvviso apparve un demone. Hai fame? Vuoi questo? È bello e succoso. No, devo andare avanti. E stanca, affamata e assonnata, principessa fata andò avanti. Ogni volta che si aggrappava ad un albero per aiutarsi a camminare, un altro demone spuntava chiedendole di mangiare il frutto. Hai fame? Vuoi questo? È bello e succoso, eh? Hai fame? Vuoi questo? È bello e succoso, eh? Hai fame? Vuoi questo? È bello e succoso, E ogni volta che si rifiutava di prendere il frutto, una spina la pungeva. Ma lei proseguì. Io non mi arrenderò! Usò fino all'ultima goccia di forza di volontà per salire al castello. Alla fine lo raggiunse, ma le porte erano chiuse. Provò a rompere la serratura, ma non ci riuscì. Quindi cercò ancora una volta nella borsa e si trovò in mano una chiave. La mise nella serratura. Immediatamente fu trascinata in una magnifica stanza. Al centro della stanza giaceva il corpo del principe arcobaleno, profondamente addormentato. «È quello il principe?» Andò dal principe e lo scosse. Lui non si mosse. «Oh, come faccio a svegliarlo? È un sonno magico e solo la magia può romperlo!» Aprì la borsa e rimosse ciò che vi era dentro. Era un piccolo violino che aumentò le sue dimensioni e suonò la melodia più bella mai sentita. Una melodia che imitava i canti degli uccelli e la brezza dell'alba. Il principe si mosse e finalmente si svegliò. «Principessa fata, amore mio, mi hai raggiunto!» «Ti avevo detto che non mi sarei arresa senza aver provato!» «Hai rischiato la vita per salvare la mia! Mi hai salvato! Grazie, grazie mille!» All'improvviso si udirono grandi suoni di cerimonie e una bella regina entrò con una grande processione di nobili uomini e donne. «Madre!» «Figlio mio! Sei finalmente sveglio! Ora che il suo incantesimo è rotto, l'Arci non potrà mai più ferire un altro umano! Come hai fatto?» Il principe arcobaleno raccontò a sua madre tutto di come principessa fata gli aveva salvato la vita e di quanto fossero innamorati. Dissero anche alla regina di come la principessa fosse stata rapita dal suo regno. Immediatamente venne inviato un messaggio ai genitori di principessa fata. Furono sopraffatti dalla gioia nel vedere la loro amata figlia viva e vegeta. Le famiglie erano felici. Il principe e principessa fata si sposarono con la gioia di tutti. E sì, vissero felici e contenti. La loro storia mostra cosa puoi fare se non ti arrendi mai e ti concentri semplicemente su realizzare i tuoi sogni. Non è vero?